Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato e benvenuti da Giulia Crivelli alla Rassegna Stampa Europea. Comincerei oggi, invece che iniziare come abbiamo fatto nelle settimane scorse, dall'Economist, per cambiare un po', da un giornale tedesco, la Süddeutsche Zeitung, che parla di un tema che si intreccia un po' con le discussioni che ci sono state in questi giorni in Italia, le discussioni sui famigerati F-35, ma anche sui caccia Eurofighter europei e sul tema più generale della necessità di riformare gli eserciti europei dei singoli paesi e magari anche di averne uno generale. Sapete che è un tema che potrebbe essere al centro anche dell'agenda della nostra Federica Mogherini, che è la prossima, diciamo, ministra degli esteri europei, o meglio alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. La notizia quindi è questa, che in Germania c'è un po' di preoccupazione perché alcuni dei più importanti sistemi delle forze armate tedesche non sarebbero più operativi per il fatto che mancano i ricambi, e sono stati gli stessi vertici dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ad ammetterlo. I contenuti di queste riunioni avrebbero dovuto rimanere segreti, sono filtrati all'esterno e quindi, come vi dicevo, il tema si ripropone e la stampa tedesca parla sia, è da una parte preoccupata per il fatto che appunto molti di questi mezzi dell'esercito non sono di fatto efficienti, ma poi anche perché c'è quasi una negazione ad affrontare l'argomento. E sapete che la Germania è accusata in generale di rinviare molti investimenti pubblici per rimanere con i conti a posto, e quindi è un tema che si riallaccia anche con quello sempre di attualità degli investimenti pubblici, che però fanno appunto esplodere i conti. La Berliner Zeitung invece si occupa del tema dell'e-commerce. Sapete che in Europa siamo un pochino indietro rispetto agli Stati Uniti, dove molti marchi, per esempio del settore dell'abbigliamento, del largo consumo, hanno già, scrive la Berliner Zeitung, magari fino al 10-15% del loro fatturato ricavato dalle vendite online. In Europa abbiamo una legislazione molto farraginosa, e non soltanto per quanto riguarda l'e-commerce, ma in generale per tutto quello che ha trasferito il mondo reale nel mondo virtuale. Pensate al tema dell'IVA sugli ebook, che è molto più alta di quella dei libri normali, e perché mai, ci si chiede. Ebbene, però qui la notizia riguarda il sito di moda Zalando, che sta preparando una IPO, cioè un initial public offering, uno sbarco sulla borsa tedesca, e si prevede quindi che diventerà un competitor europeo molto valido per alcuni competitor americani, e poi naturalmente sapete per Alibaba, che è il grande sito di e-commerce cinese, che sicuramente ha nelle sue mire di venire in Europa, anche se per quotarsi ha scelto gli Stati Uniti, tra l'altro diventando l'IPO record di Wall Street. A proposito di tasse, se ne occupa Financial Times per il fatto che, secondo Financial Times, gli Stati Uniti si apprestano a una stretta per evitare la fuga delle multinazionali per motivi fiscali. Anche in questo caso ne abbiamo parlato, possiamo per semplificare parlare di evasione, ma a volte si tratta anche di elusione, la fanno anche le aziende americane. Il caso più eclatante e recente è stato quello di Burger King, che ha acquistato un'azienda canadese per poter tecnicamente, legalmente, spostare la sua sede in Canada e avere dei vantaggi fiscali. Ebbene, secondo Financial Times, alcuni colossi europei temono di diventare una sorta di vittime involontarie con queste nuove norme, che potrebbero limitare i benefici economici di una sede negli Stati Uniti e far salire le tasse. Ricordiamo che comunque probabilmente sarebbero inferiori a quelle che pagano in Europa e soprattutto in alcuni paesi come l'Italia e la Francia. C'è stato quindi già una specie di mossa di esplorazione per capire quanto di vero ci sia su questa riforma che potrebbe esserci negli Stati Uniti da parte di manager di colossi europei come la Nestlé. E il timore, appunto, per esempio espresso da Alex Spitzer, che è un manager della Nestlé, che è intervistato dai Financial Times, è che ci siano poi delle conseguenze involontarie, e sta come lanciando un messaggio agli Stati Uniti: attenzione, perché sì, forse sulla carta avrete più tasse, però forse correte anche il rischio che alcuni di noi colossi europei si scappi dagli Stati Uniti. Un altro tema, a proposito di così proprietà transfrontaliere, potremmo dire così, riguarda la Russia. Sapete che in un certo senso le cose forse si stanno sistemando, nel senso che in Ucraina la tregua pare reggere, quindi la crisi, diciamo, geopolitica con la Russia forse va migliorando, ma tra la Russia, l'Unione Europea e soprattutto tra la Russia e gli Stati Uniti continuano ad esserci grandi conseguenze per tutto quello che è successo con l'Ucraina, l'annessione di una parte dell'Ucraina, il referendum, insomma, lo sapete, ne abbiamo parlato tanto tempo, tante volte. Sapete che l'Italia questa settimana ha imposto, addirittura sequestrato i beni di un magnate russo molto vicino a Putin, una mossa anche qui perfettamente dentro a quello che era stato previsto, però considerata da molti anche diplomaticamente un po' rischiosa, perché questo personaggio ha interessi in moltissimi campi, tra cui quello energetico, e soprattutto è un grande amico del presidente Putin. E purtroppo, quando si considera Putin, sembra quasi incredibile che il paese più grande del mondo vada considerato anche come, alla luce degli umori e delle reazioni di un solo uomo, che è il suo presidente. Ma Putin è questo, è di fatto un dittatore, è inutile che ce lo nascondiamo. Ebbene, il Moscow Times riporta che ci sarebbero allo studio una sorta di controsanzioni per queste sanzioni europee, che l'Italia è stata tra le prime ad applicare, sanzioni economiche ad alcuni personaggi russi molto legati al Cremlino. Le sanzioni che tra le sanzioni che Mosca starebbe contemplando è quella di vietare che stranieri abbiano un qualsiasi tipo di partecipazione nei media russi. Il nuovo limite dovrebbe essere un quinto delle azioni o del patrimonio, e la Duma di Stato, cioè la Camera Bassa del Parlamento russo, dovrebbe approvare il disegno di legge in questi giorni. È naturalmente un problema sia dal punto di vista di chi magari crede ancora nell'editoria e voleva investire, e poi c'è il rischio paventato da molti giornali che comunque questo tolga un pochino di autonomia, perché se la proprietà è unicamente russa c'è ovviamente un pochino meno di forse di così libertà anche solo psicologica di esprimere le proprie opinioni quando il proprio editore di riferimento è comunque russo e molto spesso legato direttamente o indirettamente al Cremlino. È interessante, invece cambiamo completamente argomento, che il New York Times si occupi di ambiente. Si è parlato molto di ambiente a New York in questi giorni, perché nella settimana scorsa, forse lo ricordate, la famiglia Rockefeller ha deciso di diversificare molto i suoi investimenti, allontanandosi dal petrolio, dall'energia più dura, diciamo quella più da secolo XX, e di entrare invece molto, investendo molto nelle energie pulite. Bill de Blasio, il sindaco di New York, ha annunciato grandi piani di ecosostenibilità per New York, insomma un tema molto importante. Allora, il New York Times si occupa dell'Italia e di come come la giunta regionale della Toscana abbia adottato un piano che viene considerato anche dal punto di vista urbanistico e quindi dell'impatto sull'ambiente molto innovativo, e che quindi potrebbe essere un esempio per altri paesi, e soprattutto che potrebbe anche, per esempio, riscuotere il plauso dell'UNESCO. La sostenibilità ambientale ormai non è più semplicemente non inquinare, ma è anche, per esempio, rendere l'agricoltura più sostenibile, e il New York Times sottolinea come questo piano regionale della Toscana tenga conto anche di questo. Quindi, insomma, non sempre si parla dell'Italia come di un cattivo esempio, ma anzi, a volte c'è qualcuno che considera le nostre buone pratiche. Impossibile non parlare naturalmente del terrorismo, e allora tutti i giornali francesi, come potrete immaginare, giovedì ma anche venerdì, erano pieni di commenti all'uccisione di Hervé Gourdel, il turista che è stato decapitato. Era un turista normalissimo che è stato decapitato il 24 settembre. Semplicemente avuto così, si è arrischiato forse in zone in cui avrebbe dovuto forse non arrischiarsi. Sta di fatto che è stato appunto giustiziato. Ci sono naturalmente i politici francesi hanno tutti commentato. E François Hollande, il presidente, si è proprio mostrato commosso, ha detto che Gurdel è morto perché il suo paese, la Francia, combatte il terrorismo e perché rappresentava un popolo amante della libertà che combatte la barbarie. A proposito di terrorismo, un'ultima segnalazione da un quotidiano olandese, Het Laatste Nieuws, che secondo il quale ci sarebbe stato sventato, ma proprio all'ultimo, un attentato alla Commissione europea, che era appunto nel mirino di un attentato terroristico. Il quotidiano Fiammingo aggiunge che la polizia di Bruxelles ha trovato armi da fuoco ed esplosivi pronti per essere usati. Ecco, scusatemi, non è un quotidiano olandese, ma un quotidiano belga. E questo materiale esplosivo è stato trovato in un appartamento affittato da una coppia di cittadini olandesi. Ecco perché mi ero confusa: di origine turca, con legami presunti con Sharia for Belgium, un'organizzazione salafita attiva in Belgio. E qui ci ricolleghiamo naturalmente al tema di cui anche si è molto parlato, dando raccogliendo dei dati che purtroppo sono molto difficili da verificare su quante persone magari proprio allenate, che hanno passato un trascorso dei periodi fuori dall'Europa, sono poi tornati in Europa con l'ambizione di diventare dei veri e propri terroristi. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Sereno sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.